Ed eravamo ancora in anni pre-rete, internet certo. Esisteva già, perché come sappiamo dall'Internet Day che Radio 3 sta celebrando oggi, internet, la tecnologia di internet compie oggi 50 anni, ma la rete è un fenomeno naturalmente più giovane. Per analizzarla dal nostro punto di vista di cinematografari abbiamo voluto coinvolgere uno studioso, un analista dei media digitali, Antonio Pavolini, che saluto. Antonio, buonasera. Buonasera. Autore, tra l'altro, di Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV, edizioni di The Informart 2016, ma insomma uno dei principali studiosi dei media da cui ormai siamo circondati, con il quale vorremmo provare ad analizzare un mondo che per noi studiosi di cinema è diventato un mondo indispensabile, ovvero il mondo di YouTube. YouTube è, come tutti sanno, una piattaforma web, è stata fondata nel 2005, già l'anno dopo, leggo qui su una scheda, già nel 2006 Google se l'è comprata per 1,65 miliardi di dollari, non milioni, miliardi. Secondo stime, che su cui Pavolini forse adesso ci confermerà o meno, è il secondo sito web più visto al mondo. Confermo. Dopo Google, appunto. Ed è diventata la miniera dei cinefili, perché tutti i film che una volta uno andava a cercare nei cineclub, nelle videoteche, oggi appena uno deve rivedere un vecchio film, che fa? Va su YouTube e vede se il film c'è. Ma al di là di questo utilizzo cinefilo, Pavolini, che cos'è YouTube nel mondo di oggi, nella nostra fruizione dei media digitali di oggi? Ma allora, diciamo che YouTube è stata la prima manifestazione evidente della teoria della coda lunga di Chris Anderson, e cioè quella teoria secondo cui ogni contenuto sarebbe stato non solo disponibile e fruibile, ma soprattutto avrebbe avuto una sostenibilità economica anche infinitesimale, perché naturalmente Google, come dice la parola, che poi comprò YouTube dopo un anno, può contare su modelli economici che premiano anche un contenuto che viene visto una sola volta. Mm-hmm. E questo fa sparire tutti invece i vincoli delle precedenti catene distributive, no? Non solo il cinema, ma anche la televisione, anche le videoteche, dove c'era sempre per ogni contenuto da tenere presente un costo di distribuzione, oppure di scaffale, oppure di supporto. Ecco, chiaro. Tutto questo è sparito. Ma poi dal punto di vista culturale, la cosa più affascinante, e che poi ha contaminato largamente l'industria cinematografica, diciamo, precedente, è il fatto che col fatto che non era più una risorsa scarsa, non erano più i contenuti, perché si poteva trovare qualsiasi cosa, ma diventa a questo punto l'attenzione del fruitore, che comunque ha una giornata di 24 ore, e quindi c'è questa battaglia per conquistare le eyeball, le palle degli occhi delle persone. Quello che succede è che anche chi produce per l'industria cinematografica oggi deve confrontarsi non più con immaginari eterodiretti da colleghi registi che ragionano in ottica da Hollywood in giù, ma si devono anche confrontare con immaginari prodotti in cellule molto piccole, le famose nicchie, ma nicchie non di tipo cinematografico, perché nel cinema tradizionale si parla da decenni di nicchie. Le nicchie di internet sono veramente, affondano nella cultura popolare più invisibile, quella che non aveva mai supportato modelli di business. Oggi il cinema deve confrontarsi anche con quelle. Io vorrei farvi sentire, dura 18 secondi, il sonoro, alla radio possiamo usare solo il sonoro, del primo video mai caricato su YouTube. È a suo modo un piccolo documento storico. Era un video di 18 secondi di un ragazzino allo zoo, davanti alla gabbia degli elefanti. Negli anni, dal 2005 in poi, questo video, stando a quello che dichiara YouTube, naturalmente, noi tocca fidarsi, no? Antonio Pavolini, giusto? YouTube ci dà dei dati e noi tendenzialmente ci crediamo, ma saranno veri. Dovrebbe esserci una peer review, essere verificati da più parti. Ecco, comunque questo video secondo YouTube è stato visto 78 milioni di volte. Ed è, ascoltatelo, è un ragazzino che parla degli elefanti allo zoo. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. that's pretty much all there is to say. Ecco, e quello è tutto quello che c'è da dire. È questo ragazzino che è davanti alla gabbia degli elefanti e dice: questi sono gli elefanti, e la cosa più caratteristica è che hanno delle proboscidi molto lunghe. È una stupidata, però è la prima cosa mai caricata su YouTube ed è la dimostrazione di come YouTube nasca come spinta dal basso in qualche modo, ma è rimasta tale, Antonio Paolini, o ora è veramente è una specie di corporation? Un momento, il ragazzo che gira quel video è Jawed Karim, quindi uno dei tre fondatori di YouTube. Certo, sì, sì. E quindi questo video viene visto milioni e milioni di volte perché è un documento storico, non certo per... Ovviamente. Per il contenuto. Per la qualità, né per la qualità, insomma. Ecco, sì, né sì. Per la qualità, esatto. Potete immaginare cosa può essere la qualità di un video caricato su una piattaforma del 2005 quando c'erano ancora parecchi vincoli importanti tecnici. No, beh, sì, il discorso della cultura dal basso, però, diciamo, viene sempre un po' descritta come la somma pressoché infinita dei video amatoriali, ma la verità è che YouTube e in generale il video su internet ha permesso una sostenibilità economica anche da parte di autori o comunque di detentori di competenze che non avevano bisogno necessariamente di una catena editoriale. Per esempio, io... ricordo che ci fu molto scalpore quando a un certo punto la Filarmonica di Berlino da sola decise di abbandonare Decca, Deutsche Grammophon e di smettere di fare accordi per esempio con le televisioni e le radio e di distribuire direttamente in streaming e on demand i propri concerti. Ecco, questo fa capire che c'è in mezzo, la vera rivoluzione non è la somma di tutti i video amatoriali, ma il fatto che tantissimi detentori di diritti o comunque di contenuti che in questo modello avevano un mercato hanno potuto disintermediare la distribuzione. Grazie non solo a YouTube, perché poi YouTube pone anche dei vincoli, naturalmente, non è soltanto rose e fiori, di questo magari potremmo parlare, ma proprio perché ci sono regole nuove. Esatto. Così come per la musica iTunes ha fissato regole nuove per l'industria discografica, YouTube ha fissato regole nuove per l'industria dell'audiovisivo. E infatti dentro YouTube si trovano molti film, ma non si trovano tutti, a volte si trovano a pagamento, quindi anche dal punto di vista strettamente del cinema è un'enorme banca dati, ma una banca dati in cui forse bisogna sapere un po' cercare, Antonio, è così? Sì, ma poi soprattutto non c'è il nessun rigore, diciamo, bibliografico. Assolutamente. Nel modo in cui è strutturata la banca dati, no? Abbiamo spezzoni straordinari, però... si cercano con la logica del best effort, cioè del miglior tentativo, non c'è la volontà di strutturare una vera library, una vera biblioteca. Per esempio, se uno vuole vedersi tutto il famoso Plan 9 from Outer Space di Ed Wood, che è considerato uno dei film più brutti del mondo, bene, su YouTube si trova perché... perché fa parte della cultura popolare, poi anche grazie a Tim Burton, che come sapete dedicò un film a Ed Wood. Però quello è un estremo, se uno volesse trovare qualcosa di veramente unico, no? YouTube probabilmente non lo premia, non c'è nessuna certezza di trovarlo, quindi non c'è una logica bibliografica nel modo in cui è strutturata anche YouTube. Come tutti sapete, su YouTube poi si possono creare dei canali tematici. Io oggi, cercando un po' in rete, e anche qui magari Paolini mi confermerà o meno, ho fatto questa curiosissima scoperta, che è sicuramente la scoperta dell'acqua calda per chi è pratico di queste cose. Il canale tematico con più utenti, con più iscritti su YouTube, è il canale di una casa discografica indiana che si chiama T-Series, che ha 116 milioni di iscritti. Ed è un canale dove si trovano canzoni di Bollywood, canzoni appunto del cinema indiano. E quindi, salutando Antonio Paolini e ringraziandolo per questo contributo, grazie Antonio, grazie davvero e complimenti per il tuo lavoro. Io adesso vorrei farvi sentire quella che è la prima canzone che si visualizza quando voi aprite il canale YouTube di T-Series, ripeto, 116 milioni di utenti. ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ